Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. La storia di oggi la facciamo iniziare dalla sua fine. Il 29 gennaio del 2015 muore Maurizio Arcieri, direi nel silenzio, in un rumorosissimo e colpevole silenzio da parte di quasi tutti i media. Eppure Maurizio Arcieri è uno che ha fatto moltissimo per la musica italiana e non sempre è stato ringraziato come meritava. Lui ha avuto tante vite, tanti colpi d'ala, prima con la sua band, i New Dada, poi come solista e poi con i Crisma, il duo che ha fondato con la moglie Cristina. Insomma, in ogni momento Maurizio è stato uno dei musicisti italiani di prima fascia, uno sperimentatore come pochi, uno che è andato sicuramente oltre il provincialismo di una musica del nostro paese. E lui è stato punk prima che ci fossero i punk a Londra, ha fatto musica elettronica all'altezza dei Kraftwerk, ha sperimentato suoni diversi, è stato trasgressivo fino in fondo e quando si è stufato della indifferenza italiana si è permesso il lusso di ignorare chi lo ignorava. Se n'è andato a 72 anni, è un peccato perché avrebbe potuto regalare ancora tante cose alla musica. Vorrei fare delle esperienze nuove, nuovissime, cose, vorrei fare cose che non ho mai fatto, che non ho mai potuto fare. Beh, adesso c'è che potrei fare un elenco. La musica è sempre stata la sua grande compagna, per tutta la vita l'ho accompagnato. Dunque, lui nasce a Milano il 30 aprile del 1942. Il padre aveva un negozio di elettrodomestici vicino a casa mia, anzi io quando ero bambino andavo, perché si narrava, insomma la leggenda narrava che lui ogni tanto passasse dal negozio del padre in via Friuli a Milano, e quindi io andavo a vedere se riuscivo a incontrare il mitico e bellissimo Maurizio dei New Dada, perché i New Dada sono la sua prima band, anche se prima c'è una band di ragazzini insieme a Pietruccio Montalbetti dei Dick Dick. Poi lui, Maurizio, lascia il suo, questo gruppo di ragazzi e va a fare il cameriere in Inghilterra per guadagnare due soldi, e non erano anni in cui tutti andavano a fare il cameriere in Inghilterra, quindi già una scelta come dire avanti sui tempi. Va a respirare aria nuova, ascolta un suono nuovo, l'esperienza funziona, quando torna in Italia lui si mette a fare sul serio e finalmente fonda il suo primo vero gruppo, i mitici New Dada. È il 1964, loro sono in, hanno la passione per la musica beat e forse anche qualche ispirazione intellettuale, se decidono di darsi il nome di un movimento artistico dei primi del Novecento. Ditemi per prima cosa, dai Maurizio, e mi dica l'origine, la motivazione del titolo, del nome del vostro complesso, perché New Dada, se eventualmente legato al dadaismo, al nuovo dadaismo, a Dada. Ma innanzitutto Dada, ho scelto il nome perché è bello Dada, no? Dada è facile, no? Dada, tosto, è musicale. È musicale, facilissimo, no? Anche, così dico, dice altre volte, cioè, i bambini, no? Quando nascono non dicono, non so, Rolling Stones o... Non dicono, al massimo dicono Toto, Tata, Cici, eccetera, eccetera. Cioè, Dada è facile, no? Questa è la prima ragione. Secondo, la più importante, cioè, è questa, che... abbiamo scelto Dada appunto dal dadaismo, no? Per fare un qualcosa di diverso, in un senso. Ma ti pugni se non sai perché, questa sera lei non è con te. Ma ti pugni non lasciar che mai, si diverte sotto gli occhi tuoi. Chi comanda il mondo siamo noi. E vedrai che ritornerà. Come molti gruppi formati da ragazzi in quel periodo, i New Dada iniziano con cover di brani famosi, hanno una marcia in più perché vengono notati da Leo Watcher, che è un talent scout, li porta sul palcoscenico del festival dei complessi beat di Rieti, e un anno dopo c'è la loro prima grande occasione perché diventano uno dei gruppi che supportano la tournée italiana dei Beatles. Nel 65 al Vigorelli, nel mitico concerto del Vigorelli, c'erano anche i New Dada come opening act. Maurizio ricorda benissimo come andò. No, noi siamo stati gli unici che abbiamo avuto successo, a parte i Beatles, assieme ai Beatles, gli altri li hanno fischiati tutti. Con questa imprimatur di partenza, la scalata per il successo diventa ancora più semplice. Partecipano al Cantagiro e c'è un regista del Cantagiro che si chiama Ugo Gregoretti, che segue la manifestazione, realizza un reportage e ha molto modo di constatare l'entusiasmo dei fan nei confronti dei New Dada. La fortuna ci ha assistito facendoci incontrare questi due giovanotti che si chiamano Gianni Oligieri, Ernesto Pongiluppi, i quali sono dei collezionisti di autografi in modo diverso da quello che noi conosciamo, cioè si fanno scrivere l'autografo sulle braccia. Ecco, questo è l'autografo di... Questo è l'autografo di Maurizio dei New Dada. Le cose che racconti tu. E al Cantagiro loro cantano Non dirne più, ovviamente una cover, e poi nel 66 incidono il primo e unico LP, I'll Go Crazy. E la band dura poco, c'è un litigio, sono molto giovani, il gruppo si scioglie, ma la carriera di Maurizio non finisce di certo qui, perché lui si era già segnalato, insomma, Maurizio dei New Dada era il cantante. Iniziano le prime canzoni da solista, poi lui si fa chiamare solo Maurizio, i titoli sono Ballerina, Comizio, Era solo ieri. Poi arriva il 1968 e con il primo grande successo, 5 minuti e poi, lui la presenta al Disco per l'Estate, vince Luglio di Riccardo Del Turco, ma la vera hit della stagione è la canzone di Maurizio, 5 minuti e poi. Grandissimo successo, tutti lo comprano, anch'io bambino di poco più di 10 anni feci di tutto per farmi regalare il 45 giri, 5 minuti e poi, del mitico Maurizio, che diventa la star del momento, anche perché ha un physique du rôle, perché piace davanti alle ragazze, diventa veramente un idolo, perché quelli erano gli anni, insomma, di Meroni, di George Best, di quei tipi, anche di Mal, dei Primitives, e piace anche ai giornalisti, vogliono sapere tutto da lui, se ha la fidanzata, come spende i soldi, gli articoli su giornali come Bolero e Teletutto fioccano. Lui gioca un po' a fare il cantante affermato, gira con la sua Porsche bianca, si gode la popolarità, però non bastano le canzoni ai fan e quindi lui diventa anche attore. Fa i famosi musicarelli, che erano quei film che si facevano con una trama magari un pochino labile, ma eseguendo un sacco di canzoni. È il momento di Quelli belli come noi, parentesi, che sono tanti, era un'altra canzone famosa di quel periodo, insieme a Lino Banfi e una giovanissima Loredana Bertè. Ma ciao, io mi chiamo Elisabetta, e tu? Io no, cioè sì, io... Maurizio. Soltanto? È troppo corto. Con quei capelli così lunghi ti dovresti chiamare Vercingetorige. Arrivano gli anni 70 e la musica comincia a cambiare, non è più musica beat, è qualcos'altro. Lui deve prendersi una pausa e naturalmente per lui prendersi una pausa giustamente è trascorrere un po' di tempo a Londra, perché è lì che ci si ispira. Il risultato è una cover del famoso brano degli Who, la Suite di Tommy, quella See Me, Feel Me, l'hanno cantata gli Who a Woodstock solo l'anno prima. La versione di Maurizio Arcieri si intitola Guardia, mi aiuta, mi tocca, mi guariscimi, non è esattamente la stessa cosa, però insomma, se non altro dimostra che Maurizio ha molto buon gusto nella scelta dei brani su cui fare la cover. E lui si definisce così: musicalmente parlando sono un tipetto piuttosto preparato, attento a qualsiasi nuova forma musicale. Questa è una caratteristica che si porterà dietro per tutta la vita. Siamo al periodo dal 70 al 76 in cui Maurizio Arcieri dà alle stampe un solo album che non vende neanche molto. I tempi stanno cambiando e in qualche modo è il momento anche per lui di fare qualcosa di particolare. È il 1976 quando nascono i Crisma e Maurizio Arcieri presenta questo brano Amore sul palco del Festival Bar insieme a una bella ragazza bionda. Bella mi sembra dire poco. Ha un abito nero con uno spacco profondissimo, si chiama Cristina Moser ed è la sua compagna già dal 1966, quando lei non aveva ancora 14 anni. Anche lui ti ha preso a 13 anni? Eh sì. L'avevi 13 anni? Eh sì, ho conosciuto Maurizio a 13 anni. Per cui, però... Lei mi aveva detto che aveva, di verità, non facciamo delle figure. Lei mi aveva detto che aveva un bel 15 anni. Gli avevo sparati un bel 15. In effetti, dopo 2 mesi che la frequentavo, è stato fuori a 13 anni. Queste sono le confidenze dei Crisma a Red Ronnie. Cristina è veramente piccola, però si innamorano di un amore che, malgrado le stranezze di entrambi i personaggi, durerà per tutta una vita. Crisma è proprio il nome Cristina Maurizio. Un'idea semplice, la spiegano anche in una trasmissione della Rai molto famosa a quei tempi, nel 77, Adesso Musica. I Crisma, molto interessante scindere il nome. Cris, che viene da Cristina, e Ma da Maurizio. Maurizio, cantante dei New Dada, molti successi come solista, dischi, tournée. Cristina, prima solo bella moglie di Maurizio, si vogliono bene. Cristina segue sempre Maurizio nei suoi tournée. Maurizio le chiede se vuole cantare con lui. Nascono i Crisma. La primissima produzione dei Crisma è disco dance, anzi la loro musica in Italia viene definita un po' stupidamente, come spesso accade in questo paese, sexy dance, però lui se la ride e forse un po' la cavalca la definizione, anche nel look. Maurizio, perché ti metti il rossetto? Così. È divertente farlo. Scusi, in un 77 squallidissimo, triste, no? Così almeno toccarsi, insomma, almeno avere un po' di fantasia, insomma. Il genere che facciamo, sexy sound, deve avere anche una dei simboli, delle rappresentazioni abbastanza così precise, insomma. Ma ma la sexy dance è solo un breve passaggio, perché qualcosa sta succedendo in tutto il mondo, soprattutto nell'amatissima Londra. Loro vanno a vedere, e ci andavo anch'io in quegli anni, e c'è veramente qualcosa di nuovo, qualcosa di rivoluzionario. Londra è stimolante e generosa. Come mai sto passaggio dal sexy poi al punk? Che vi è successo all'improvviso? È cambiata la musica. Cambiata la musica. La musica, mi sono messo a comporre e avevo voglia di fare un'altra musica che non fosse la disco. Così allora ho cominciato a comporre, mi sono fissato a casa e ho capito. E poi siamo che London, che poi veramente ti fa Londra vi ha sconvolto. Sì. E mi ricordo anche la data, 4 ottobre 1977, il giorno in cui Maurizio Arcieri e il sottoscritto si conoscono in una cantina. Io suonavo con i Decibel e lui aveva già dato vita ai Crisma, e fu una folgorazione. Insomma, lui era un po' più grande di me, anzi molto più grande di me, eppure aveva una energia e una curiosità assolutamente uniche. Era un vero punk. A Londra continuano una collaborazione con Nico Papatanasiu, il fratello di Vangelis, direttore artistico della Polydor, e pubblicano nel 77 un album meraviglioso, del quale io ho seguito la gestazione da spettatore, null'altro. L'album è Chinese Restaurant. Molto materiale di questo album risale addirittura al 74, quando ancora non si parlava di punk, e questo va detto vieppiù, insomma, a loro onore. Una musica così non si è sentita in Italia. Il loro sound viene descritto come matematica applicata alla musica, anche perché lui è sempre un grande provocatore. E in Italia, insomma, di persone vestite di pelle con i capelli ossigenati e con una spilla conficcata nella guancia ce n'erano solo due: uno ero io e uno era lui. Quindi immaginate l'effetto che fa l'esibizione dei Crisma in una delle prime trasmissioni musicali del tempo, la mitica Piccolo Slam, condotta da Stefania Rotolo, purtroppo scomparsa poco dopo, da Sammy Barbò. È una trasmissione seguita dai giovani. Cantano due canzoni molto famose dell'album Chinese Restaurant: Maurizio ha i pantaloni di pelle, il piercing, Cristina ha uno dei suoi soliti spacchi prodigiosi. Era veramente una cosa strana da vedere, perché in quel periodo in Italia sembrava ci fossero solo i cantautori con le loro chitarre, le loro sedie, le loro camicie a scacchi, Guccini, Venditti, De Gregori, cioè grandi personaggi che però non avevano il minimo senso dello spettacolo, mentre i riferimenti musicali di Maurizio sono assolutamente diversi. Nel pezzo Thank You li elenca tutti: Mick Jagger, Iggy Pop, Charlie Watts, i Noi, Roxy Music, però elenca anche il custode il portinaio della Polygram, la sua casa discografica. Insomma, elenca un po' tutti, con l'atteggiamento rivoluzionario e dissacratore che era una delle sue cifre stilistiche principali. I Crisma, ovvero Cristina e Maurizio in Black Silk, Stakin e Lola. I Crisma in Black Silk, Stakin. And when she is not talking, be sure she wants some rocking. Black Silk Stakin, Black Silk Stakin. If you're not into rocking, you're best to keep on walking. Black Silk Stakin, Black Silk Stakin. You think she's going to leave you, but she's only one to see you in her Black Silk Stakin, Black Silk Stakin. Falco e il Gabbiano. A me piace molto fare le cose che non fa nessun altro, e quindi ho voluto parlarvi oggi di Maurizio Arcieri, fondatore dei New Dada, ma soprattutto dei Crisma, uomo particolare, grande innovatore, al quale non è stato ovviamente dato nessun tributo dopo la sua morte avvenuta quest'inverno, alla fine di gennaio, per un male incurabile. Abbiamo raccontato prima dell'epopea dei New Dada, poi dei suoi viaggi a Londra, perché in quegli anni si andava a Londra per capire cosa stava succedendo nel mondo, non c'era internet. Poi di Christina Moser, la sua musa e la sua compagna per tutta una vita, malgrado fossero due tipi dalla faccia di quelli che si separano dopo un anno, e invece sono stati assieme tutta la vita, dando vita a una band assolutamente alternativa per tutti. I Crisma ovviamente si sono attirati anche delle critiche, non solo verso di loro, i giornalisti del settore magari hanno mostrato delle perplessità. Qualche settimana fa abbiamo pubblicato un servizio sul punk e naturalmente, come sempre succede, ho ricevuto una lettera di insulti ferocissimi, una lettera almeno di 4 pagine, e naturalmente ce n'era per tutti, ce n'era soprattutto per me, ma ce n'era anche un pochino per voi. C'era un attacco violento al punk italiano e naturalmente, come si attaccavano gli incesti, poi si attaccavano anche i Crisma. Quello mi sembra normale, mi sembra assolutamente normale questo atteggiamento da parte della stampa e da parte di tutti. Una cosa che direi che fra 10 anni anche la stampa, guardate, avranno nostalgia dei punk come ora nostalgia degli hippies, come ora nostalgia dei Teddy Boys del 1954. Credo che sia la stessa cosa. Allora questo tu, per consolarti degli insulti, credo. Allora tu che cosa rispondi a questo insultatore, diciamo, che probabilmente ci sta vedendo e ci sta seguendo e mi scriverà un'altra lettera terribile? Ma direi di continuare a scrivere, di impegnarsi, almeno di stare attento, anche per questa la stampa, insomma, questo è... Cioè, se i punk sono, non possono essere amati appunto perché si chiamano punk, no? Non, è giusto il senso, anzi, senza le lettere di odio. Questa era la voce di un grandissimo signore del giornalismo che si chiamava Gherardo Gentili, di Sorrisi e Canzoni TV, che stava appunto intervistando i Crisma, che hanno detto una cosa intelligentissima, cioè un giorno verrà rimpianto il punk, cosa che è accaduta puntualmente. Poi in quel periodo, insomma, loro danno vita a delle esibizioni, a dei concerti che sono dei veri e propri happening. Io ne ho visti alcuni, per esempio c'era un ragazzo che mangiava pezzi di carne cruda sul palco invece che suonare, ma pezzi da 50 centimetri di diametro, e lui faceva il concerto smembrando la carne cruda. E poi c'è il famoso episodio del finger job, quando Maurizio, per protestare contro gli autonomi che a loro volta protestavano ovviamente contro di lui, si taglia un dito, insomma, così si racconta. Era un periodo piuttosto pesante, c'erano gli autonomi, ti ricordi? Yes, sì. BR, e avevano deciso tutti questi autonomi di venire a contestare. Insomma, a un certo punto c'erano le bombe Molotov nella discoteca, chiuso, perciò era morto. Maurizio stava puoi dirlo tu, però facevo una performance con un coltellino greco, sì, e mi facevo saltare da lì dentro i bottoni della camicia, che bianche, è sexy questo, sì, era una specie di strana, che la cosa stava degenerando. C'era questo lì, un pazzo lì, questa Molotov che si è scoppiata, insomma, alla fine c'era, non sapevo cosa fare, ho preso, ci sono dato un colpo per reazione, gli ho tirato il dito in bocca a questi, che erano andati via, sai, se ne potevano. Così almeno hai salvato la serata. No, quello è svenuto. Abbiamo finito la serata, però c'era sangue dappertutto. Abbiamo finito però anche il tour. Però il problema è che questo ci hanno cancellato, sì, l'immagine. Hanno cancellato perché avevano paura di disordini. Avevano paura dei disordini. Insomma, come avete sentito, l'episodio si tinge di leggenda alimentata da loro stessi, poi viene liquidata in maniera un po' superficiale in un articolo che esce sulla stampa, che conclude il racconto così. Maurizio, un po' sbiancato in volto, si è lasciato convincere a farsi portare in ospedale, dove i sanitari, invece di praticargli l'eutanasia per il bene suo, di sua moglie e di tutti noi, gli hanno riattaccato il dito con un'ardita operazione. Intervistato successivamente, Maurizio ha ribadito il concetto dell'italianità del punk, Così imparano quelli che sostengono che lui copia gli inglesi. E così imparano anche i punk di Londra. Beh, insomma, spero che quello che ha scritto questo articolo non faccia più il giornalista. Lo strascico di questo incidente è anche che alcuni concerti si dice siano stati annullati. Insomma, loro vanno avanti per la loro strada, che è una strada che ovviamente li riporta a Londra. Al album Chinese Restaurant fanno seguire un altro album molto interessante che si chiama Hibernation. Un nuovo disco con un nuovo scandalo, un videoclip nel quale Maurizio e Cristina simulano atti sessuali e suicidi in una stazione della metropolitana. E i funzionari Rai forse non se ne accorgono perché il video viene presentato addirittura a Dominica Inn. Poi arriva il terzo album, Cathode Mama, con un cambio di nome nel duo, perché da Crisma con il CH si passa al più internazionale Crisma con la K. E con loro c'è anche un musicista che è un grande musicista, un tastierista, Hans Zimmer, è uno che poi scriverà un sacco di colonne sonore, lavora come direttore del dipartimento musicale della DreamWorks, ha lavorato, non so, al Re Leone, ha vinto Oscar, è un musicista di primissima fascia che capisce il valore dei Crisma e per un certo periodo si aggrega alla formazione. In tre loro sfondano veramente e il singolo Many Kisses è uno dei primi esempi di elettropop, diventa uno dei tormentoni del 1980. Ultimo lavoro dei Crisma con Papatanasio e con la Polydor, perché vanno in CGD 1982, poco dopo arrivo anch'io con Il nostro destino, che in qualche modo continua a incrociarsi. Nasce un altro album particolare, si chiama Clandestine Anticipation, un album che è molto costoso perché intanto loro lo fanno un po' qua, un po' a Londra, poi arriva Mario Convertino a fare da copertina e in quegli anni insomma Convertino era uno dei più cari artisti che facevano copertine di dischi. E poi c'è Mr. Fantasy per il quale i Crisma producono due video per l'epoca faraonici, vanno a girare addirittura in Indonesia. L'album è costruito tutto attorno al concetto di acqua, che già di per sé è un'idea innovativa. Il Merry Christmas di Mr. Fantasy. Christmas, questo è water. Anche Clandestine Anticipation forse un po' in anticipo sui tempi. Così piace alla critica, diventa un album che piacerà nel corso dei decenni, però in quel momento si rivela un disastro commerciale, come spesso accade alla musica migliore. Quindi lui se ne va a New York con ovviamente Cristina, va dalla Atlantic Record, l'etichetta specializzata in rhythm and blues che ha pubblicato Ray Charles, Aretha Franklin e Otis Redding, va negli Atlantic Studios a registrare l'album Fido, che in Italia diventa Nothing to Do with the Dog, e viene pubblicato da una piccola etichetta, la Frampton Record. Anche in questo caso il fallimento commerciale è abbastanza evidente e anche in questo caso l'album invece diventerà un must per tutti gli amanti della musica elettronica negli anni a venire. Intanto lui riesce a ideare uno dei primi mini sintetizzatori che lui battezza il Crismino, e in quel periodo loro iniziano a partecipare al programma televisivo Bebop a Lula di Red Ronnie, che è, come dire, uno dei pochi a intuire le grandi potenzialità dei due Crisma. Red Ronnie chiede a Maurizio di riarrangiare la sigla del programma in chiave techno, e a questo proposito Red ci racconta un episodio molto divertente. Io dissi: guarda Maurizio, la sigla di Bebop a Lula è di Jim Vincent, io vorrei rifare Bebop a Lula, e perché non me la rifai tu? Prendi Bebop a Lula e la rifai con la tecnologia, con tutti questi suoni che tu sai mettere, perché lui era molto avanti. E lui mi disse: va bene. Partimmo, tornammo giù dal ristorante in queste stradine strette, i tornanti in mezzo al bosco, non c'era neanche una macchina, sulle colline sopra il Lago Maggiore. per andare a dormire a casa sua. A un certo punto lui ha frenato, ha inchiodato la macchina. Io ero con la mia, lui era con la sua, c'era sopra Cristina. Ha inchiodato la macchina e è sceso, a momenti io lo tampono. Si è messo accanto a me, io, guardate Maurizio, e lui mi dice, senti, ha cominciato bip-bap, bip-bap, bip-bap, bip-bap, bip-bap. E, dice, e io gli chiesi, che cos'è Maurizio? E lui mi dice, è Bipoppalula. E me la cantò tutta, lui nel breve tragitto, dico, Maurizio, questa non è Bipoppalula, cioè è un'altra cosa. La verità è che Maurizio è sempre stato un vulcano incontenibile e forse è proprio la musica che gli sta sempre più stretta, ancora di più ovviamente la musica italiana. Fa un ultimo album che si chiama Non ho denaro, viene prodotto per l'etichetta di Vasco Rossi e per Bollicine, probabilmente grazie all'intercessione di Red Ronnie, e poi esplora nuovi mezzi di comunicazione, gli interessa la televisione. Così i Crisma iniziano a partecipare a una serie di programmi, da Fuori Orario a Blob a Sat, e poi lui ci pensa e decide che la televisione è bella, ma una televisione ancora più bella se la fanno loro. E così alla fine degli anni 90 nasce Crisma TV, la loro emittente satellitare, con una grande parabola di 5 metri piantata in giardino. Non c'era quel tipo di televisione in giro, vari satelliti, non c'era questa che era solo immagini molto attraenti, molto disturbanti o molto attrattive, con una musica fatta al momento, con un programma che si chiama Rebirth, la facevo al momento, una cosa nuovissima, e andavi in onda in tutta Europa, dal nord di Mosca in Spagna, tutto il satellite. Torneranno solo nel 2009 nella televisione nazionale per diventare gli irriverenti e ironicissimi opinionisti nella trasmissione Chiambretti Night di Piero Chiambretti, una parte che loro fanno benissimo. Negli ultimi anni loro continuano a fare musica con lo stesso amore di sempre, collaborano con molti artisti italiani, con i Subsonica, con Franco Battiato nell'album 10 Stratagemmi, poi sono spesso ospiti nella famosissima discoteca Cocorico, dove mettono la musica che piace a loro in DJ set molto seguiti, e loro dicono che sono i nonni della techno, e a loro sta bene perché hanno una grandissima autoironia, ma in effetti è vero, perché la loro musica ha influenzato tanto i giovani musicisti italiani. Continuano a vivere nella campagna varesota, a Stresa più precisamente. Poi continuano a essere una coppia sicuramente molto, molto alternativa, ma di certo molto unita, con in comune la grande passione per quello che creano assieme. E quando Maurizio si ammala, Cristina è al suo fianco fino alla fine. Voglio lasciarvi con una frase di Maurizio: quando morirò non cambierà nulla per la musica italiana, spero di cambiare qualcosa per la musica celeste. E io sono convinto che stia avvenendo proprio questo. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala e persone che hanno fatto grandi cose che sono state capite magari non subito. È il caso dei Crisma e di Maurizio Arcieri. Ciascuno può cadere e può rialzarsi, e ognuno di noi ha i suoi tempi. Quando sei avanti con i tempi, ti capiscono dopo. Se volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, oppure venite a trovarmi, a trovarci, insomma, nei nostri social. Lo fate già, e quindi se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano. Programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi.